fatto una sintesi della filosofia occidentale negli ultimi 3.000 anni. I primi 1.000 anni sono stata la domanda fondamentale della filosofia, adesso poi arriva la risposta, era: perché è così cattivo? Cioè, c'era un bestiolino cattivo, perché è così cattivo? E non si trovava risposta. Dopo 1.000 anni hanno trovato risposta: perché morde. Sì, allora cattivo perché morde. 1.000 anni dopo è venuta fuori una terribile domanda: e perché morde? E la risposta: perché è cattivo. E si sono resi conto che erano dentro una cosa senza fine: morde perché è cattivo, e cattivo perché morde. Fino a che c'è stato uno che ha detto: adesso basta, la filosofia deve cambiare, si è posto una nuova domanda: si può essere così cattivi? E lì per 1.000 anni la filosofia ha taciuto, perché non c'era risposta. Finalmente è arrivato Wittgenstein e di fronte a questa domanda ha detto: uno può essere così cattivo? E la risposta è: lo è. Da quel momento, fine della filosofia. Tu, per questo che ti chiedo, cosa studi filosofia a fare? Ormai è epigonale la filosofia, dopo Wittgenstein, basta, è così cattivo.